La biblioteca organizza queste serate di incontro con l'autore, con l'autrice, settimanalmente, proprio per mantenere sempre vivo l'interesse e conoscere da vicino anche quelli che sono i fenomeni letterari che stanno nascendo, che si stanno affermando anche qui sul nostro territorio. Sono contenta che questa sera sia qui con noi appunto una giovane autrice, ma matura, brava, come Madeleine Neumayr, che appunto accanto a un impegnativo percorso di studi come quello di medicina trova il tempo, la voglia, la curiosità di raccontare il genere umano, l'animo, le sue contraddizioni, soprattutto in un'età appunto giovane, dove ci si deve ancora prendere le misure, capire come funziona, e poi non si finirà mai di imparare, questo è un po' il vecchio adagio. Comunque siamo molto contenti, ecco, di avere anche questa occasione di scoprire, di vedere il mondo con così un punto di vista diverso e a volte, lasciatemelo dire, anche un po' raro, perché gli autori giovani sono per noi preziosi da coltivare, da seguire, e non sono così frequenti, ecco. Invece sarebbe molto utile capire anche attraverso la loro esperienza, la loro visuale, quella che può essere una lettura di vita, una prospettiva che può darci anche un po' di coraggio e di entusiasmo in più. Qui abbiamo preparato una vetrina dei libri editi appunto dalla casa editrice Alfabeta, con cui da tanti anni continuiamo una preziosa collaborazione di indagini sul territorio e di promozione alla lettura. Ringrazio ancora una volta i nostri ospiti e in particolare appunto Lucio Giudice Andrea, che ci accompagna in queste serate con la sua sapienza, la sua conoscenza dell'ambito letterario e soprattutto di quella che è la vita del nostro territorio. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a Madè, grazie buonasera di essere qui così numerosi. Giusto per completare quello che ha detto Valeria Trevisan, penso che bisogna ringraziare in particolar modo la casa editrice che ha pubblicato questo libro, Alfabeta, non solo perché ha pubblicato questo libro, ma per il lavoro di ricerca e di promozione che fa sul territorio, come ha detto Valeria, riguardo appunto alle persone di qua, di questa terra, che scrivono, non necessariamente di qua, ma che insomma scrivono. Penso di poter dire che questa pratica, questa attività di riflettere attraverso la scrittura sul luogo in cui si è una pratica che contribuisce, diciamo così, a mettere, ovvero a rafforzare le radici che abbiamo. Nell'agosto del 1996 mi trovavo una volta a fare il turno in redazione, a dover scrivere le notizie per la radio, e facendo quello che si chiama il giro di nera, cioè noi giornalisti telefoniamo ogni giorno a polizia, carabinieri, finanzieri, buonasera, Croce Bianca, Croce Rossa, per sapere se era successo e cosa era successo quel giorno, ci comunicano una notizia piuttosto curiosa, e cioè che era nata una bambina per strada, in buona sostanza, cioè nella macchina che le stava portando, la madre all'ospedale per partorire. Questa bambina era Madeleine Neumayr, che stasera salutiamo e che evidentemente aveva fretta di nascere. Aveva fretta di nascere, e forse si può introdurre questo libro così, che questa fretta in un certo senso c'è anche nella scrittura, c'è anche nella storia della quale stasera parliamo, in queste quattro storie, perché, e lo vedremo leggendo, questi quattro ragazzi corrono sempre. Cioè sono sempre lì che corrono, che girano, che si aggirano per la città, che corrono, sono inseguiti, e così Madè, credo che sia anche che tu voglia leggere anche questo brano che poi inaugura il libro, è l'inizio del libro, Il libro è abbastanza consistente, come vedete, sono 220 pagine, forse anche di più, ed è articolato, quattro storie, ed è articolato così che queste quattro storie corrispondono a quattro personaggi, due ragazzi e due ragazze, i quali parlano, e questi capitoli che noi leggiamo sono tutti scritti in prima persona. Il primo capitolo, dal quale Madè ora vi leggerà qualcosa, è dedicato al primo protagonista di questo racconto, romanzo, che si chiama Jacopo. Provo un attimino a leggere con il microfono, vediamo. Mi sentite? Sì. Va bene, non sono abituata a leggere al microfono, ovviamente. Correvo nella notte, i miei passi risuonavano sordi e frettolosi sull'asfalto. Una lieve pioggerellina aveva reso la strada scivolosa, stavo attento a non cadere, ma senza badarci troppo. I miei respiri si rincorrevano l'un l'altro, sempre più veloci, come un treno in corsa. Non mi sarei fermato. Eccola, la linea del naso, quell'arco concavo così perfetto, le lentiggini. Ferma, non muoverti, adesso ride e lo arriccia. Adesso, ecco, l'ho arricciato, ha riso. Lo sapevo. Correvo e correvo, il mio sguardo scivolò dalla punta delle scarpe alla linea sottile tra strada e cielo. Era notte, ma non era buio del tutto. In lontananza si vedeva quel grande bagliore che non abbandona mai una città. Risplendeva nella notte torbida il brillio pallido di tante luci unite, alcune grandi, altre piccole, insegne al neon, luci di vetrine, di televisori o lampioni, unite senza sapere di esserlo, convinte di splendere, ognuna per conto proprio. La strada si snodava ad anse tra i campi della periferia. In lontananza l'asfalto si stagliava contro la linea del cielo e quell'orizzonte, illuminato dal bagliore della città, mi sembrava un traguardo alla mia corsa, alla gara contro non so che. Adesso vedevo di nuovo il suo viso davanti a me, sentivo i pensieri passo dopo passo prendere il sopravvento. Cercai di resistere, concentrandomi sul battito del mio cuore, su un punto in lontananza, sulle mie scarpe, su qualsiasi cosa che non fosse lei. Ma cedere a quei pensieri era tanto più facile, era come abbandonarsi a qualcosa di familiare, anche di fidato. Il neo, quello dietro l'orecchio sinistro, quello è il più bello di tutti. Lo voglio toccare, voglio passarci sopra il polpastrello e sentire se l'orecchio è caldo, come sembra. Solo sfiorarlo, non chiedo di più. E so che non posso, forse mai potrò. Vorrei gridare. Chiusi gli occhi, cercando di scacciare lei dalla mia mente. È che ci stava così bene lì dentro, tra gli altri pensieri, perché mai avrebbe dovuto andarsene. Dunque, Madè, Jacopo, dalle righe che ha detto, si capisce che ci sono queste descrizioni molto dettagliate, il neo, la linea del naso, cosa dice? Il neo, quello dietro l'orecchio sinistro, quello è il più bello di tutti, cioè delle descrizioni molto precise che vanno molto nel dettaglio, e poi c'è uno stile di scrittura molto, molto secco, fatto di frasi molto brevi, che in un certo senso definirei, come dire, siccome corre, appunto, definirei di scrittura che cerca di imitare il ritmo di questo ragazzo che corre, che evidentemente, anche se ancora non sappiamo bene perché e per cosa, è inquieto e cerca di scacciare dei pensieri, ovvero cerca di rincorrerne altri. Questa cosa mi dà, questa osservazione mi dà la possibilità di chiederti, mi dà l'occasione di chiederti, Madè, questo libro l'hai scritto, come dire, di getto o ci hai lavorato? Cioè anche la tua scrittura è una scrittura di corsa? La mia scrittura, io sicuramente ho scritto di getto il libro, ho iniziato dal primo capitolo e ho finito col capitolo numero 30 dell'ultimo capitolo. E diciamo che quando era ora di scrivere, che avevo tempo, che mi sedevo e mi mettevo a scrivere, per me era chiaro, adesso avrei scritto circa 3 pagine e mezzo di un documento Word, e che mi sarei alzata quando avrei finito di scriverle, non mi sarei alzata prima, perciò diciamo che Il capitolo stesso è scritto di getto, poi ovviamente l'ho riletto parecchie volte, si sfoltisce un attimino, si corregge, e però in principio sì, in un getto solo. E quando hai iniziato a scrivere sapevi già dove volevi arrivare? No, proprio no, avevo l'inizio bene, proprio bene in mente, l'inizio e come sarebbe stato il libro come struttura, diciamo, ovviamente la struttura, ma alla fine anche i capitoli finali e diverse svolte le ho decise man mano scrivendo. Questione che rimane aperta, perché ci sono degli autori che dicono che i loro personaggi poi li prendono la mano, come se questi personaggi del libro vivessero una vita autonoma, come se fossero delle persone di per sé, e ci sono invece degli altri che dicono che i loro personaggi non hanno mai detto o fatto niente che non fosse nella penna di chi scrive. Di Jacopo sappiamo già qualche cosa, adesso passiamo a Adele, il secondo personaggio, perlomeno nell'ordine che abbiamo scelto questa sera, e è un personaggio molto interessante, secondo me. Poi Madè e io cercheremo di, così parlando, cercheremo di capire perché. Adele è, per dirla con una parola banale, è cattiva, è una figura malvagia, è una figura che trama, è una figura che insomma ha anche intenzione di combinarle di grosse, è una figura che recita, è una persona che intanto ha anche dei sentimenti molto duri, molto ostili, ed è anche una consapevole di questa sua doppiezza, di questa sua, al limite forse è consapevole della sua malvagità. La vediamo nel brano che leggerai, che è quello del funerale, giusto? Del capitolo funerale, appunto un funerale, cioè una delle occasioni della società più, come dire, più strutturata, cioè un funerale si sa quello che si fa o si deve fare a un funerale. Muore un uomo che ha un rapporto di lavoro con la madre di questa Adele, ed Adele viene portata dalla madre e poi convinta dalla madre a restare a quel funerale. Adesso sentiamo come Adele ci sta. La navata della chiesa era colma di persone, uomini, donne e bambini. Nelle prime file tutti vestiti rigorosamente di nero. Dalla bancata dove ero seduta accanto a mia madre potevo vedere i capi chini e la bara di mogano scuro che contrastava con il bianco perlaceo dell'altare di marmo. Macchie verdi, gialle e blu, riflesse dalle alte vetrate, riempivano di colore alcuni angoli della chiesa, in un modo così sfrontato, così gioioso, da sembrare fuori posto. Le parole del prete si susseguivano pigramente, andando e venendo, la sua voce era solo uno sfondo ai miei pensieri, a quell'atmosfera così da funerale, perché infatti un funerale era. Alla fine della cerimonia ci alzammo, seguendo la massa di persone che usciva sul sagrato. Davanti a me i tacchi di mia madre ticchettavano nervosamente sulle piastre di marmo della chiesa. Lacca scura, tacco a spillo, scialle di seta, cappello a tesa larga, dal quale scendeva una cascata d'oro di capelli, unico contrasto a tutto quel nero. Prodotti di bellezza, gioielli esclusi, il tutto avrà avuto il valore di un suo stipendio mensile. Ma dovetti ammettere che era bella, strepitosamente bella, almeno quanto me. Ci fermammo davanti alla chiesa, mettendoci in fila per fare le condoglianze alla moglie di Rizzi. Madre e figlia, tenuta impeccabile, i visi austeri e belli allo stesso tempo. Abbigliamento da passerella. Sembravamo uscite da una rivista di moda e qualcuno avrebbe forse potuto avere la pazza idea che fossimo felici. Mia madre sorrise a una coppia giovane e io feci lo stesso, seguendo il suo esempio persona dopo persona. Avevo imparato quella parte alla perfezione. Non c'era attimo in cui mancavo di attenzione, in cui lasciava qualcun altro i fili da tirare, i fili che erano fissati a ogni parte del mio corpo, dalle punte dei piedi agli angoli della bocca. Sorridi, stringi la mano, saluta, abbassa lo sguardo, scuoti leggermente il capo. Sorridi, stringi la mano, saluta, abbassa lo sguardo. Ci interrompemmo un attimo, in religioso rispetto, falso anche quello ovviamente. Eravamo arrivate in testa alla fila, davanti a noi stava la vedova. Mi feci quasi pena, non per la morte di Rizzi, ma perché doveva stare lì davanti e sentire le parole di tutta quella gente, gente come me e mia madre, gente falsa insomma. Teresa, mi dispiace, ti penserò. Mia madre prese le mani dell'anziana signora tra le sue, la guardò apprensivamente, poi una lacrima scese sulla sua guancia, perfettamente incipriata. Oddio, era anche riuscita a piangere, a far stillare una lacrima dai suoi occhi. Io non ci sarei riuscita. Lo so, Maria Luce, lo so. Grazie a te e a tua figlia, bella come te, Luce, come te. Mi chiesi se sapesse che quel ti penserò era una fandonia, come il mi dispiace, come la lacrima. Ma la vedova sorrise stancamente e mi guardò. Sapevo che era il mio turno. Le strinsi la mano come aveva fatto mia madre. Le mie sincere condoglianze, signora Rizzi. Una lacrima scese anche sul mio viso, fui sorpresa. Evidentemente ero più brava di quel che pensassi. A me, devo dire la verità, questo personaggio mi intriga molto, questa Adele, perché poi alla fine, vabbè, dimmi se sbaglio, siccome sa che è falsa anche lei, è alla fine con tutto che è trama, con tutto che fa delle cose di nascosto, con tutto che, però alla fine è la più vera. Che domanda difficile, sì, non è una domanda alla fine, è la più vera, la più autentica, si potrebbe dire. Dovrei pensarci proprio, so che. E perché hai voluto tratteggiare un personaggio così? Adele è stato il personaggio che per me, scrivendola, l'ho scritta più volentieri di tutti. Era dove proprio mi sedevo e dicevo, ma adesso tocca di nuovo ad Adele. Proprio è stato molto interessante proprio per me stessa, e scrivere un personaggio così, non si può dire cattivo perché anche sì è cattiva, poi in altri punti anche è cattiva, lei trama, no? Vuol fare delle foto, distorce delle foto è alla sicuramente sua amica. È sicuramente interessante, e in Adele traspira appunto molto questa sua cattiveria, perché lei, essendo una ragazza fondamentalmente si potrebbe dire frustrata, scontenta, proprio per far capire agli altri quanto disadeguata si sente, e non lo nasconde, non nasconde affatto questo suo sentimento, non trova altro modo che essere, come hai definito tu, cattiva. Sì. Sì, e poi soprattutto lo sa, insomma, lo sa, sì. E se lo dice. Senti, Adele, astraendo un po' adesso, poi completeremo questo giro sui personaggi. Tu non hai neanche 22 anni, perché sei nata in agosto, e appartieni a pieno titolo a quella che si definisce la generazione digitale, cioè voi sapete usare con molta facilità i mezzi di comunicazione di massa, i cosiddetti social media, i telefonini, le telecamere, le immagini, eccetera, eccetera. A questa generazione si rimprovera spesso di non essere capace di concentrarsi, di stare più tempo chini su un testo, su una pagina, cioè entra una velocità nella vita, nella percezione, nella produzione delle cose che a noi di una o più generazioni più anziane di te sembra appunto un fenomeno. Così ci scombussola un po', perché non siamo abituati. Invece tu ti sei imposta di stare seduta al tavolo a scrivere, cioè a usare questo mezzo espressivo della scrittura. Cos'è che con la scrittura si può dire, con le parole si può dire, e che con altri mezzi, tipo, che ne so, l'immagine, il suono, eccetera, non si può dire? Con la scrittura. Questo è difficile. Si potrebbe scrivere un saggio intero. Sì. Con la scrittura. Per me, personalmente, scrivendo, ma soprattutto anche rileggendo dei pezzi appena scritti, appena sfornati, diciamo, c'è proprio ho un gran piacere, diciamo, c'è proprio un gran piacere, però posso immaginarmi che un artista che dipinge abbia questo stesso piacere dipingendo e guardando i suoi dipinti, o in questo senso un musicista riascoltando un suo brano potrebbe avere lo stesso piacere. Però la scrittura è più precisa, cioè la scrittura poi dice delle cose precisa. Altri mezzi sono più evocativi. Sì, forse la scrittura, essendo così precisa, è più... è proprio difficile questa. Diciamo che essendo così precisa, proprio forse riesce a cogliere meglio alcuni sentimenti, a portarli proprio al lettore. Invece con un dipinto o con un brano musicale penso che il tutto sia un po' più dettato dal sentimento, più evocativo, più libero. Però a te piace, intanto lo si capisce da quello che scrivi, a te piace anche osservare nel dettaglio e, permettimi di dirlo, anche giudicare, a me piace giudicare. A me piace osservare molto. Mi ricordo appunto una cosa che il papà spesso racconta, che quando io ero piccina, proprio che facevo fatica a camminare, io se vedevo un filetto per terra, un pezzettino di stoffa, qualcosa, mi chinavo e proprio con due dita cercavo di tirarlo su. Perciò penso che già da piccola avessi questa voglia di osservare il dettaglio. Il dettaglio, sì, si può dire. Giudicare non saprei. Penso si possa fare questa osservazione anche in base a quello che abbiamo sentito dal libro. Io posso dire, per esempio, Tizio entrò in un ambiente molto moderno, e allora io do una descrizione, in questo caso diciamo così, molto, molto debole, molto banale, di che cos'è un ambiente moderno, cioè affido a chi mi sta leggendo il compito di immaginarsi che cosa voglia dire moderno. Oppure io posso descrivere il personaggio che entra in una stanza e dire, che ne so, sfiora il muro con la mano e si accende la luce, perché la stanza dispone di un dispositivo tale, oppure gira una manovella e la luce sale e scende, oppure tocca un bottone e sale e scende la saracinesca, non lo so. Voglio dire che esistono appunto descrizioni che abbondano molto di aggettivi, e poi esiste uno stile che mi sembra più quello di Neumayer, che invece è veramente più racconto, cioè le cose succedono, delle cose, cioè quello corre, mette un passo davanti all'altro, vede quella persona, nota quella linea sull'orizzonte, cioè un tipo di scrittura che fa accadere molte cose e che in questo modo comunica cose che altrimenti si comunicherebbero, come dire, molto più banalmente attraverso degli aggettivi. Il terzo personaggio, la terza storia di queste quattro storie, si chiama L come la lettera. E anche L spesso corre. L corre, per la verità, perché c'è qualcuno che la, se non proprio insegue, c'è qualcuno che la segue, c'è un personaggio che lei solo alla fine del libro riuscirà a capire chi è, che la segue. Noi lo sappiamo già chi è, perché leggiamo la storia raccontata anche da questo personaggio. Questo personaggio è Jacopo. Anche El mi sembra una figura, diciamo così, problematica. Poi ti farò una domanda su questo, però il brano che ci siamo messi d'accordo di leggere ce la presenta alla fine, anche lei, di una corsa, verso la fine di una corsa, la sera di un'uscita da jogging, diciamo. Sì. Ma poi mi resi conto di quel che avevo appena visto. di chi avevo visto e iniziai a tremare. Dico davvero, lì ferma nella notte in una strada laterale di una qualche via della mia città, iniziai a tremare forte. Avevo paura, una paura violenta, e ora non era solo una morsa attorno al mio torace, un fluido di angoscia. Mi sentivo inzuppata di quella paura, mi sentivo annegarci dentro. Non so più esattamente quanto tempo rimasi lì ferma, né come riuscii a tornare a casa. So solo che a un certo punto cominciai a smuovermi e a partire correndo, mettendo di nuovo un piede davanti all'altro, maledicendomi di essere uscita in strada, sentendo l'eco dei miei passi in ogni momento, angosciata, che non fosse la mia eco ma quella di qualcun altro, quella dei suoi passi. I miei pensieri, che un attimo prima ancora correvano più veloci di me, cespicandosi a vicenda, percorrendo le strade improbabili della fantasia, ora erano come paralizzati, intrisi da quella paura così bagnata e pesante, così appiccicosa. C'era un unico pensiero che riusciva a sciogliersi da quella massa vischiosa, forse perché in qualche modo le apparteneva. Mi segue, pensavo, mi segue, mi segue, mi segue, e poi ti vedo. Raggiunsi la parte della città in cui abitavo, quella verso il centro, passai davanti alla scuola e mi chiesi se anche lui la frequentasse. Passai davanti al parco della mia infanzia e mi chiesi se fosse stato veramente lui lì, quella mattina. Poi finalmente arrivai davanti alla porta della nostra casa e mi chiesi se sapesse anche dove abitavo. E la cosa più assurda era che le risposte le sapevo già, sì, sì e ancora sì. E avrei voluto piangere, ma non mi riusciva. Cercai di aprire il portone con la chiave, mancando due volte la serratura, perché le mani mi tremavano e perché continuavo a guardarmi alle spalle. Poi finalmente la porta si aprì, come una promessa di sicurezza, e io mi infilai dentro svelta, chiudendola alle mie spalle. Salva. Il ragazzo che è innamorato di El è Jacopo. Noi non diremo poco niente, vogliamo dire poco niente della trama, perché quella non la possiamo ricostruire in così poco tempo, e poi perché ognuno la deve scoprire da sé, diciamo. Però diciamo che una trama c'è effettivamente, che contrariamente a molte altre opere o diciamo atti comunicativi che semplicemente terminano ma non finiscono, questo libro ha anche una fine degna di questo nome. E sappiamo tutti che è facilissimo iniziare le cose, è molto più difficile finirle. Anche El, da quello che abbiamo sentito, è un personaggio inquieto. Tu prima hai detto che il personaggio di Adele, cioè che è quello più marcato, più caratterizzato, ti è venuto più facilmente. Però anche solo passando in rassegna ai personaggi che abbiamo visto fino adesso, ne manca uno, poi lo vedremo, passando anche solo in rassegna a questi personaggi si capisce che hanno tutti delle inquietudini, nessuno di loro è quel, per dirlo in termini filosofici, quel soggetto dalle idee chiare e distinte che tutti vorremmo essere. Al contrario, sono tutti turbati, sono tutti perturbati, hanno tutti un grande es, potremmo dire, citando Freud, che si fa sentire, e come. Però questo mi dà occasione di chiederti, Madè, è più facile descrivere, raccontare, parlare dell'inquietudine, delle cose che non vanno, molto di più che semplicemente parlare della gioia, dei momenti felici, tranquilli, sereni? Se è più difficile parlare dell'inquietudine, o se è più facile? Trovo che sia più, per me come scrittrice di questo libro di quattro storie, è stato più facile descrivere un'inquietudine, è stato più facile descrivere momenti negativi e difficili, di fatica. E ho trovato molto, molto più difficile. Ecco, ho detto adesso che è stato più difficile. È stato più facile. È stato più facile, infatti è quello che volevo dire. E è stato per me più difficile descrivere i momenti tra virgolette normali, e i momenti positivi, i momenti gioiosi. Senti, sappiamo tutti, ma dai, che, come dire, anche l'inquietudine personale è una grossa molla per la scrittura, no? Però questa è una cosa più specifica, che sta più dentro la scrittura, cioè per quale ragione è più facile raccontare o parlare o mettere lì l'inquietudine che non la beatitudine, diciamo così? Perché penso che la beatitudine e la felicità possano molto leggermente, cioè molto facilmente scivolare nel banale. È molto difficile, non so, una poesia sull'amore. È dura scriverla, è dura renderla non banale. E invece una poesia magari su un momento di tristezza, su un momento di solitudine, penso che, non voglio dire che sia più facile, penso che sia una cosa anche molto individuale, però per me sarebbe più facile. Sì, anche perché adesso non saprei citarmi al volo, ma ci sono dei momenti, perché abbiamo sentito di inquietudini, abbiamo sentito di impazienze, di timori, di dubbi, ma ci sono anche dei momenti belli, tranquilli, rilassati nel libro? Sì, sì, ci sono in tutti i personaggi, perfino nel personaggio di Adele c'è un momento positivo e tranquillo, e penso che sia appunto molto interessante sia per me che per una persona che legge il libro per la prima volta, questo alternarsi di negatività e di positività, perché infatti è quello che, adesso non per scivolare nel banale, ma è quello che un po' è la vita, se siamo sinceri, un po' per me quando ho iniziato a scrivere il libro, che ho iniziato a scrivere questo libro a 17 anni, l'ho scritto qualche anno fa, ovviamente c'erano momenti belli, c'erano momenti brutti, come tuttora, come penso per ognuno, se no sarebbe un po' strano. Quanto hai tratto dalla tua esperienza su questo libro? Questo libro non è autobiografico, proprio non lo è, però ovviamente come scrittrice, osservando le persone che ho incontrato, osservando me stessa, c'è tanto delle mie esperienze ovviamente. Poi come autrice, come un puzzle, si mettono insieme i pezzetti e si creano nuovi personaggi, nuove storie. Sì, potrei dire questo. Dunque, resta inteso che se qualcuno vuole fare osservazioni, domande, può alzare la mano e le fa, mentre noi, anche come dire, mentre stiamo parlando, mentre noi completiamo il nostro giro, perché ci rimane da parlare di Mattia. Abbiamo detto che Elle, la ragazza della quale abbiamo appena parlato, corre anche lei perché è inseguita o seguita. Quindi Elle ha, come dire, uno spasimante, un amante segreto, un amante che non sa lei stessa chi è, però ha invece un amico dichiarato, aperto e fidato, e questo amico è Mattia, si chiama Mattia. Mattia è un ragazzo molto introverso, ha molto successo nello sport, è un giocatore di pallacanestro, verrebbe addirittura ingaggiato per giocare in un campionato superiore, ma lui rinuncia. È un personaggio triste perché c'è il babbo che è depresso e c'è una ragione molto seria e pesante per questa situazione, ed è il fatto che Mattia è orfano di madre. Anche in questo caso io posso dire: a Mattia morì la mamma quando aveva 12 anni, e anche questa è una frase chiara messa lì, però abbastanza banale. Sentite un po' come Madè ci racconta come Mattia ha appreso della morte della madre. Questo appunto è un pezzo da un capitolo di Mattia e è un suo ricordo da bambino. Buonasera, parla il signor Fontana. La voce dell'uomo nella cornetta è distante, è un po' preoccupata. Mattia si guarda intorno. Ha 12 anni, i suoi capelli sono quasi biondo. No, il papà non c'è, è sotto la doccia, pensa, ma anche lui in fondo si chiama Fontana di cognome. Sì, è lui il signor Fontana. Gli piace sentirsi chiamare signore da qualcuno al telefono. Sì, sono io, dice cercando di imitare la voce grossa di suo padre. È lei il marito di Donatella Fontana? Mattia è confuso, ma poi dice sì di nuovo. Sì, sono io. E poi le parole, al di là della cornetta, sono tante e rapide. Si susseguono, come se una si vergognasse dell'altra. E Mattia annuisce, senza capire e senza pensare, che il signore dall'altra parte non può vederlo annuire. Ma poi sente incidente e strisce pedonali, gravi conseguenze, pronto soccorso e le mie condoglianze, signor Fontana. Mattia sta zitto, assorbe tutte quelle parole, fissando le piastrelle e il tavolo della cucina. E poi prende coraggio, dimenticando che sta facendo finta di essere suo padre, e chiede cosa sono le condoglianze, per favore? L'uomo dall'altra parte ammutolisce. Mattia chiede di nuovo, e di nuovo ancora, e sente solo la propria voce acuta e l'eco nella cornetta. Continua Mattia, che ormai non è più bambino in questo pezzo. Era tardi, a un certo punto mi sentii fuori posto, da solo sulla strada, a qualche centinaio di metri da casa. Girai i tacchi e tornai da dove ero venuto, pensando a cosa dire una volta entrato in casa. Forse sarebbe stato meglio non dir niente, andarsene a dormire, con la certezza che la mattina dopo tutto sarebbe stato normale. Davanti a me c'era il cancelletto del condominio. Lo spalancai, salii la rampa di scale che portava al nostro appartamento. Tirai fuori le chiavi, aprì la porta, entrai e mi tolsi le scarpe. E poi li vidi, i cocci e i pesci e tutto il resto. Mi fermai un frammento di secondo. L'acquario era a terra, a pezzi, l'acqua era dappertutto, sulla mensola, nell'ingresso, in soggiorno. Arrivava fino in cucina. I due pesci rossi giacevano rispettivamente uno sotto il tavolo e l'altro tra un pezzo di vetro e una scarpa. Era la scarpa di mio padre. I pesci erano immobili. «Papà!» gridai. «Papà!» Badando a non destare i cocci di vetro, avanzai. I miei calzini si inzupparono in pochi istanti di acqua fredda. Aprì la porta della mia camera, poi della sua, poi guardai nel ripostiglio. Sapevo che da qualche parte c'era. Il nostro appartamento non era molto grande. Mio padre era in bagno, seduto per terra. Sapeva di alcol, proprio come in un film fatto male. «Cosa hai fatto?» gli chiesi. Non rispose. Aveva la testa tra le mani e vidi che piangeva. «Che hai fatto?» «Non sono stato io, Mattia. Non sono stato io. Va a giocare a pallacanestro. Vattene, Mattia!» Aveva la voce impastata. «Chi è stato? Non io! Chi?» «Quella lì, di tua madre, per diamine, Donatella, è stata lei. Mi accasciai accanto a lui. Quel pallone da basket in camera mia mi sembrò ridicolo. Così come Adele e le mie paure di assassini non esistenti. Poi piansi, come un bambino e come mio padre. E in quel momento l'unica cosa di cui ero felice era che nessuno ci vedesse.» Dunque, in un primo momento Adele e io ci eravamo messi d'accordo quando ci siamo incontrati per programmare questa presentazione. Avevo capito che lei avrebbe letto un altro pezzo di Mattia, e io voglio leggervelo, anche se poi ne è stato scelto un altro. Io voglio leggervelo perché è molto, molto particolare, ed è in un certo senso un esempio nel piccolo di certe strategie, chiamiamole così, narrative, che nel libro poi ricorrono spesso. Quando il sole splende, qualche raggio cade sempre su un pezzo di metallo, che sia una nave da qualche parte in mezzo all'oceano o una locomotiva tra un campo di grano e uno di papaveri. I raggi si infrangono sulla superficie metallica, riflettendo la luce chiara come il flash di una vecchia macchina fotografica. Se poi il pezzo di metallo è laccato di rosso, i raggi non si accontentano di splendere, perché a quel punto sembrano fondersi con tutto quel colore, abbagliando chi cerca di afferrarli con lo sguardo. La mia Vespa è laccata proprio di rosso, e vi assicuro che vedere i raggi di sole colpirla è una di quelle cose che sono semplici e meravigliose allo stesso tempo, una di quelle cose belle della vita, insomma. E qui va bene, no? Poi dice, quel martedì mattina però il sole non splendeva, il cielo era coperto da una coltre di nuvole grigie e il rosso della mia vespa era lucente come gli occhi di un pesce lesso. Solo per dire che appunto Madè molte volte ci sorprende nel testo, cioè ci porta da una parte, ci fa andare da una parte per dire ecco lì, no, devi andare dall'altra. E questi voglio chiamarli trucchi, perché insomma questo stile è anche quello, trovo, che ci tiene legati alla lettura e a leggerlo questo libro, stare attaccati a questo libro. Io penso, Madè, che dobbiamo un qualche risarcimento ad Adele, perché se no l'abbiamo fatta passare come un personaggio, mentre questi giovani sono disperati perché vogliono essere sinceri, perché vogliono essere veri, perché vogliono realmente esprimersi. Lei rischiamo di farla passare per una cinica, doppio giochista, eccetera. Cosa possiamo dire? Perché io poi ho un brano da leggere di lei. Cosa possiamo dire di attenuante di lei? Di attenuante per Adele? Sì. Secondo me non è che bisogna proprio dire... Però non possiamo lasciarla così, sennò ci fa una figura da... No, nel senso che Adele, se fosse qui e ci ascoltasse, proprio sta storia di giustificarla non le piacerebbe affatto, penso. Però a chi l'ha delineato e inventato questo personaggio, secondo me la tentazione poi di giustificarlo, cioè di dare una spiegazione a questa sua malvagità, c'è. Ma come ho detto prima, secondo me questa malvagità parte da una grande frustrazione e da un modo di sentirsi disadeguata, da questo sentimento di base, da questa gelosia verso tutto quello che è normale e felice. Bisogna dire che apparentemente la sua famiglia è a posto. No, non è sicuramente a posto. È una famiglia benestante? No, non è una famiglia benestante. Adele vive con sua madre in un piccolo appartamentino. Non sono benestanti, però come si è capito dal capitolo precedente, quello del funerale, la parte esteriore, la forma, non il contenuto, sono importantissimi, sia per Adele che per sua madre. Però Adele vuole andare via, a un certo punto vuole andarsene via sbattendo la porta dal funerale, la madre la convince a restare con una cosa molto banale, molto vanitosa, cioè dicendole... Le promette un trattamento di bellezza, un massaggio in un salone molto, molto gettonato. Caro ed esclusivo. Sì. No, io penso, Madè, non so cosa dici tu, però io penso che, l'ho accennato prima, cioè che Adele sia così perché è quella più cosciente, insomma, perché quella che vede anche i limiti, come dire, vede anche il falso in se stessa. Sì, vede il falso in se stessa, ma non solo in se stessa, penso che lo veda molto nel mondo che la circonda, e questo è anche è un qualcosa che per lei è molto difficile, che le crea una grande fatica nella sua vita di ogni giorno, questo sì. Verso la fine nella scena finale del libro, che si svolge in una casa, in una villa, c'è di nuovo una festa, in una notte piuttosto scombussolata, dico bene? Sì, sì. C'è di nuovo Adele che parla e dà un dialogo e parla appunto a se stessa. Volevo leggere queste poche righe appunto le ho chiamate così, è il risarcimento che dobbiamo avere. Tu dici che lei non ne ha bisogno, però lo leggo lo stesso. Mi accucciai sul bordo della vasca. Ancora una volta intenta osservare il mio riflesso, intrappolato lì, tra uno specchio d'acqua e la pietra scura. Avrei tanto voluto liberarlo. Era una luna bianca il mio viso nell'acqua, era pallido. Forse ero così pallida che un giorno sarei svanita, evaporata nella luce. Sorrise al pensiero. E poi gli occhi sempre fissi in quelli di Adele riflessa. Mi avvicinai all'acqua, sorridendo. Bellissima, pensai. La più bella. Il mio naso toccò la superficie, come un narciso di un altro tempo ci scivolai dentro, abbracciando il mio riflesso, desiderando di evaporare insieme ad esso. Mi invase il freddo, come una camicia di ferro. Mi affogò l'oscurità. A un tratto fu tutto nero in quella vasca, non ci fu più né fondo né superficie, non ci fu più movimento, ero solo io, lì, immobile. Gridai muta. La gola mi si riempì, ingoiai gelo e buio, e forse troppa acqua. Guardai in basso e vidi un qualcosa di chiaro, di bianco. Il mio cuore fece un tuffo, desiderando che fosse la salvezza. Mi ci aggrappai. Passò qualche lungo istante prima che mi accorgessi che avevo afferrato me stessa, la mia camicia, bianca. Fui di nuovo quella principessa senza corona che non avevo mai voluto essere. Strattonai la camicia in preda al panico e un bottone d'oro si staccò. Lo vidi sprofondare, vacillante nell'oscurità. Desiderai un respiro e aria. E poi chiusi gli occhi, vidi la bambina sorridermi, sorrisi pure io, forse era giusto così, forse. Dunque, a parte queste cose, appunto, gridai muta, ingoiai gelo e buio, che sono, come dire, la quintessenza della scrittura, ecco, perché ingoiare gelo e buio lo si può solo dire, e con tutto che la frase apparentemente non ha senso, ne ha invece uno molto profondo, perlomeno in questo contesto. Con tutto che le frasi sono chiare, sono precise, eccetera, non si capisce bene, perché lei, come quel famoso quadro, non so di chi sia, Gabriele lo sa, Narciso che si specchia nell'acqua, e la scena raccontata è quella lì, no? È del Narciso che guarda e che poi, come dice la leggenda, affoga. Cosa succede esattamente qui, Madeleine, alla fine del libro? Lei si butta nell'acqua, cosa succede? Diciamo che questo è uno degli ultimi capitoli, forse addirittura è uno degli ultimi capitoli, uno degli ultimi pezzi di Adele, dove lei a questa festa a un certo punto appunto scivola in questa vasca e non si capisce, forse non lo capisce neppure lei, se l'ha fatto apposta, se c'è caduta dentro apposta o se è stato un incidente. E di più non posso dire in questo momento. No, è molto, poi tra il resto a me è venuto in mente, come dire, un topos, si dovrebbe chiamarlo così, della letteratura, mentre sono stati raccolti gli attacchi dei romanzi, dei racconti più famosi, bisognerebbe anche fare un libro che racconta la fine, che raccoglie le fine, come i romanzi finiscono. Ce n'è uno, non so se lo conosci, ma è Jack London, Martin Eden, perché la storia di Martin Eden, che poi è la storia stessa di Jack London, finisce appunto così, con questo ragazzo che aveva lottato e fatto di tutto per avere successo come scrittore, e che quando finalmente lo ottiene, ma poi come molte cose che si ottengono che non sappiamo apprezzare, lo dopo un po', insomma, non la vuole più questa vita, non lo vuole più questo successo, eccetera, e attraversando il Pacifico da un piroscafo si butta, Martin Eden si getta nel mare perché si suicida. A me questa sembra una scena così, potrebbe anche essere un suicidio, no? Potrebbe anche. E no, solo per dire, perché avevo detto della fine, perché questo ragazzo si butta nel mare, poi va sott'acqua, però dopo un po' che sta sott'acqua torna su perché ha bisogno di aria, ha bisogno di respirare. Allora dice, ah già, è la vita che mi chiama, no? Poi adesso gliela faccio vedere io la vita, allora prende aria e nuota con tanta energia verso il fondo e nuota e va giù e va giù e va giù e supera il punto in cui non avrebbe più potuto tornare. Lui se ne rende conto che supera il punto, diciamo, di non ritorno, e poi a un certo punto, sempre più giù, vede una luce e capisce che cos'è quella, e sa che cos'è quella luce. E l'ultima frase del libro poi dice: e come lo seppe, cessò di saperlo. E quindi nel momento in cui sappiamo, vediamo, eccetera, abbiamo cessato di esistere. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Se no, leggiamo l'ultima parte. Osservazioni dal pubblico. Volevo chiedere, questi personaggi sono di pura fantasia o hai conosciuto qualcuno, qualche episodio nella tua vita che ti ha ispirato e quindi c'è in questo libro un riferimento a delle situazioni reali di voi giovani oggi? Io ho conosciuto tante persone che forse ognuna o quasi ognuna ha dato un pezzettino per questi quattro personaggi, così la potrei mettere. E non è che c'è una persona che è stata l'ispirazione principale per Adele, Elle, Mattia o Jacopo. Quindi sono situazioni che si possono trovare. Certo, direi di sì, che è un romanzo, diciamo, reale. Nel nostro, così, che è ambientato nel nostro tempo. Quindi ci può aiutare a capire i giovani? Penso, forse almeno i giovani che io avevo in testa. Direi di sì. È molto buono questo. Sì. Mi è venuta in mente una cosa prima, quando Lucio parlava della tecnologia, che io adesso, rileggendo, cercando anche alcuni passaggi da leggere stasera, mi sono accorta che ci sono diversi passaggi dove ci sono i cellulari e gli sms, e io ovviamente ho iniziato a scrivere in quinta superiore, che ormai sono 5 anni fa, e penso, mi è venuto in mente che adesso, se scrivessi adesso, magari avrei scritto che mi è arrivato un WhatsApp o che mi è arrivata, non so, una foto. Invece qua sono proprio messaggi quelli che si basi. Sì. Quindi è già invecchiata la scrittura. così in fretta è invecchiata. Stiamo parlando da 50 anni. Ci abbiamo alla fine? Allora, abbiamo detto prima che appunto noi non diciamo la trama, non raccontiamo la trama di questo libro, anche se diciamo che una trama c'è. Però alla fine, proprio alla fine del libro, c'è un salto, c'è un passaggio molto sorprendente, perché a un certo punto una di queste persone, cioè Elle, parla di nuovo, è il suo turno, parla, però questa volta Elle è adulta. È adulta, e di colpo, da un momento all'altro, noi vediamo tutta la storia a distanza, a una grande distanza, e questa distanza, almeno a me è successo questo, getta ancora una volta una nuova luce su tutta la storia. Finalmente, alla fine del libro, questi due ragazzi che si amano, Elle è amata, a dire la verità, Jacopo la ama, però a un certo punto, effettivamente, alla fine del libro riescono a incontrarsi, e la scena non è descritta se non accennata, è invece riportato questo pensiero di Elle, questa volta di una Elle adulta che guarda il tutto dalla distanza dell'età. E lei ha appena finito di dire: quella sera correvamo, io e questo ragazzo correvamo. Non sapeva che non mi avrebbe più visto, come prima. Non sapeva ancora che mi avrebbe dimenticata fin troppo presto e che io avrei presto scordato lui. Si sarebbe reso conto che la E della sua testa poi non ero io, che sarebbe rimasta solo un pensiero non ancora nato, semplicemente perché io ero qualcun altro, perché sarei rimasta libera. Non sapeva che si era innamorato di un'idea e non di me, Non sapeva ancora tutto questo, quando quella notte mi baciò, sua, e non lo sapevo neppure io, in quella notte. Ci guardammo così, ignari, ci baciammo ancora come chi pensa di baciare per la prima volta. L'erba era troppo bagnata sotto i nostri corpi e l'aria troppo fresca. Sulla mia pelle troppi respiri e nel suo petto troppi martelli. In quella notte sorrisi, a Gio e a quel cielo in cui le stelle ricominciano. E quel troppo, per una volta, fu abbastanza. Questa è... Grazie. Dunque, come è stato detto, Madei studia medicina a Innsbruck e oltre a questo ha un altro romanzo nel cassetto. Noi non le chiediamo se da grande vorrà fare il medico o la scrittrice, perché lei direbbe che vuole fare tutte e due le cose. Quindi quando sarà una scrittrice affermata, noi potremo essere fieri di essere stati qui ad assistere alla presentazione del suo primo libro, e se ci dovesse mancare qualcosa e se dovessimo avere bisogno di cure, sappiamo che siamo in buone mani. Grazie e buonasera. Grazie ancora a Lucia, a cui faccio i nostri migliori auguri per tutto. Vi ricordo che il prossimo appuntamento della biblioteca è il giovedì 18 febbraio alle ore 18 presso il Teatro Cristallo con il professor Cardini Franco e Giancarlo Riccio. Il libro è Un uomo chiamato Francesco, su Papa Bergoglio. Grazie. Scusate, ancora un avvertimento. I genitori di Madei, che sono delle persone squisite, hanno preparato sotto qualcosa da mangiare e da bere, siamo tutti invitati.